Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio di questa settimana vogliamo parlare di agricoltura, valorizzazione, potenzialità e criticità nelle pianure di Padova e di Rovigo. Proprio in questi giorni, infatti, è stato presentato uno studio della SINLOC, Sistema Iniziative Locali, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha preso in esame le principali realtà produttive delle aree interessate e ne ha tratto un quadro con alcune luci ma anche qualche ombra. Saltano all'occhio infatti molte potenzialità ma anche dei problemi che talvolta resistono nel tempo. Abbiamo oggi ospite per parlare di questo Luca Lanini, docente di logistica agroalimentare all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, coordinatore della ricerca. Benvenuto, dottor Lanini. Grazie, benvenuto a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Ecco, volevamo un po' capire intanto che cosa avete preso in esame in questa ricerca che ha trattato due territori molto vicini tra loro ma anche un po' diversi, quello della zona del Padovano e poi del Polesine. Assolutamente, le realtà sono solo apparentemente vicine, del resto è lo specchio dell'Italia che è un paese a macchia di leopardo con caratteristiche simili di alcuni territori rispetto ad altri, magari distanti fra di loro e invece grandi differenze tra territori simili. Questo nell'agroalimentare, nell'agricoltura è veramente una costante del nostro paese. Nel caso specifico, SINLOC ha sviluppato un lavoro commissionato dalla Fondazione Cariparo, Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, che aveva a sua volta ricevuto indicazioni piuttosto precise da parte delle componenti agricole di rappresentanza dentro la Fondazione, quindi le associazioni agricole, eccetera, aveva pensato di fare un focus sui temi dell'agricoltura, in particolar modo per cogliere non solo le criticità, ma soprattutto per individuare degli elementi di miglioramento, no? Che fosse qualcosa anche un po' di nuovo rispetto a quello che già sappiamo, perché sono realtà e il tema in sé dell'agricoltura sono sempre molto note, ma i problemi rimangono, allora non si capisce mai perché non si riesca a risolvere. Allora, per non fare quelli che hanno scoperto ovviamente l'acqua calda e per non fare gli inventori del secolo, è del tutto evidente che l'indagine si è basata ovviamente su una parte statistica, elaborazione dei dati quantitativi e quant'altro, ma soprattutto l'indagine si è basata su incontri sul territorio con operatori, con aziende agricole, con rappresentanti delle organizzazioni professionali, con i mercati, certo, eccetera. Il tema era l'agroalimentare in generale, per essere più precisi, prodotti agricoli, quindi ortofrutta, seminativi, eccetera, e prodotti, in particolar modo il vino, quindi una parte limitata, se vogliamo, del territorio. E quindi per quanto riguarda Padova e per quanto riguarda Rovigo, con due indagini separate, quindi luoghi diversi, eccetera. Quindi, ecco, che cosa è un po' emerso? Perché, per esempio, a Rovigo so che ci sono molti, cioè in tutti i due territori, molti prodotti a marchio, IGP, DOP, eccetera, però forse questi sono un po' i fiori all'occhiello della valorizzazione che si potrebbe avere per un'agricoltura che è molto più ampia. Ecco, questo è sicuramente vero. Per voler parlare proprio di una criticità importante, possiamo partire proprio da questo che lei stava correttamente citando. I marchi di valorizzazione sono tanti, in Italia, a Rovigo, ma anche a Padova, però oggettivamente il marchio di valorizzazione da solo non porta a nulla, non fa vendere, forse estremizzando, un chilo in più di merce. Il problema è come superare questa frustrazione di chi ha un ottimo marchio di valorizzazione e non riesce poi alla fine a posizionarsi sul mercato. Una delle prime azioni fondamentali da fare e soprattutto con le sfide a venire nei prossimi tempi, è quella di tenere totalmente separata la logica della valorizzazione del marchio, del territorio, eccetera, che è fondamentale e importante, che deve seguire una strada ancora più innovativa, e le strategie di mercato. Perché i prodotti vanno venduti sul mercato rispondendo alle richieste del mercato e quindi sviluppando delle strategie ben precise di commercializzazione e di valorizzazione commerciale. Quindi la certificazione, il marchio collettivo, il marchio ombrello non servono a niente se a fianco non c'è una strategia di commercializzazione secondo i criteri canonici della commercializzazione. Ecco, questo gamma. Volumi, sì. Strategie commerciali coordinate e gestione logistica. Questi sono gli ingredienti della commercializzazione. Ecco, ci sembra molto un elemento molto importante. Magari lo riprendiamo tra qualche minuto. Certo. A tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo, si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela, sporco di vernice. Siedi sul tetto del mondo e guardalo girare, chiudi in silenzio la porta, ma solo per restare. Entra nell'anima mia, rimani fino in fondo, se quello che c'è tra noi due può cambiare il mondo. Allora guardami, toccami, stringimi, ti prego fallo ancora. Fa che una storia speciale diventi una bandiera, falla vibrare nel cielo, rendila importante, trattala come se fosse un cuore di diamante. Siedi sul tetto del mondo e poi senza parlare, baciami ancora una volta e prova a immaginare. Sei ogni notte di fuoco, arriva dal profondo. Ecco, bastiamo io e te per cambiare il mondo. E se la musica suona stasera, viene da lontano. Sorridi all'amore che passa e stammi più vicino. Non sarà vero domani, ma adesso solo adesso. Non servirà piangerci addosso, perché se c'è un sentimento profondo, allora bastiamo io e te per cambiare il mondo. Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di prodotti di agricoltura nel territorio di Padova e Rovigo. Lo stiamo facendo con Luca Lanini, docente di logistica agroalimentare dell'Università del Sacro Cuore di Piacenza. Stavamo parlando di un marchio ombrello in qualche modo. Ecco, legandomi un po' a questo, stavo pensando al prodotto vino, che forse è quello un po' più noto, ecco, in questo periodo. In quest'area magari abbiamo forse i colli Ugani, ma non solo, ce ne sono anche altre DOC che forse fanno un po' fatica a tirare il territorio, o forse no? Beh, certo, di nuovo, il marchio DOC, soprattutto nel vino, il marchio DOC ha avuto un ruolo fondamentale, un ruolo molto importante, ma da solo non trascina i volumi, non trascina la commercializzazione, non trascina la crescita aziendale, da solo. Questa la storia sul vino è emblematica da questo punto di vista, da tutte le parti d'Italia. Nel caso specifico, noi abbiamo pensato di fare una importante valorizzazione dei prodotti del vino nel Padovano, perché abbiamo scoperto che il territorio dei Colli Ugani è un territorio non solo importante, lo sappiamo tutti, ma che soffre moltissimo, anche a detta degli operatori, di una certa visibilità. Allora noi pensiamo che, per esempio, il marchio del territorio dei Colli Ugani possa essere costruito, rivitalizzato, rilanciato secondo criteri innovativi, e soprattutto che possa contemporaneamente permettere di sviluppare una strategia commerciale di vendita di più prodotti del paniere Colli Ugani, non solo il vino ma anche olio, per esempio, in un'ottica pura di marketing territoriale. Quindi il vino si vende se si vende un territorio. Il Chianti ce lo ha insegnato, oggi non si capisce ancora più se è il vino Chianti che trascina l'immagine del territorio toscano o se è il territorio del Chianti che valorizza il prodotto che ci sta dentro. In tutto questo c'è molta strada da fare. Questo per quanto riguarda Colli Ugani, che hanno un gran prodotto poco conosciuto e che l'omogeneità del territorio permetterebbe lo sviluppo di strategie di marketing territoriale di valorizzatore del territorio. Altra cosa, ecco, dicevo, sul vino, altra cosa sono i vini della bassa padovana, che invece, al di là della DOC, hanno un assoluto bisogno di concentrarsi, di fare massa critica. Troppe cantine sparpagliate, senza una strategia, senza possibilità di strategie comuni, di valorizzazione comune. Chi fa una cosa e chi un'altra dovrebbero assolutamente, per dirla molto velocemente, integrarsi in qualche modo, senza necessariamente fondersi, per andare tutti uniti alle sfide commerciali. Nel Polesine la questione per alcuni versi è più facile, perché il Polesine, e lo vivo in generale, ha un'identità territoriale complessiva molto più forte di quella del Padovano, che è molto più disomogeneo nel territorio. Quindi nella zona del Polesine, quindi nella gran parte della provincia di Rovigo, è possibile invece lavorare meglio sulla valorizzazione del territorio attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti. Attenzione, perché i marchi già ci sono: Terra del Polesine, Polè, e poi singoli marchi, certo, dei consorzi dei singoli prodotti, l'aglio per dirne uno, l'insalata per dirne due, eccetera. Quello che manca probabilmente è dare gambe commerciali, quindi gambe pratiche, aziendalistiche, alla valorizzazione del marchio. Quindi, di nuovo, come dicevamo all'inizio, sarebbe necessario, sarebbe possibile, si può pensare a costruire, per esempio, stimolare la nascita di società commerciali che vendano nello stesso paniere una serie di prodotti, di un territorio, ma secondo le regole della commercializzazione, che non sono quelle dell'identificazione del prodotto. La commercializzazione vuol dire gamma, ripetiamo, vuol dire volumi, vuol dire costanza nella fornitura e soprattutto gestione logistica. Se abbiamo questo, il marchio che si può costruire, magari lo stesso di prima, diventa un valore aggiunto, ma è una conseguenza di una valorizzazione commerciale. Il rischio è di fare prima il marchio e poi lamentarsi che il marchio non tira, non traina il mercato. Ecco, speriamo che questo sia un rischio che si possa superare, e la ringraziamo. Certo, grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Grazie quindi al professor Lanini. Passiamo a due veloci notizie perché siamo in conclusione di trasmissione. Non solo Vinitaly: da sabato 21 a lunedì 23 marzo prossimi andrà in scena per la 12ª volta Villa Favorita, il salone che Vinnatur, associazione viticoltori naturali, organizza ogni anno, che è considerato la festa del vino naturale italiano, ovvero di una vinicoltura che ha come primo obiettivo la produzione sostenibile e rispettosa del suolo, del microcosmo di ogni vigneto e della salute sia di chi pratica l'agricoltura sia di chi ne consuma i frutti. Sulla collina di Monticello di Fara a Sarego, in provincia di Vicenza, si danno quindi appuntamento i soci di Vinnatur in arrivo da 17 regioni italiane e 6 nazioni europee. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 18 per tutte le tre giornate, appunto da sabato 21 a lunedì 23 marzo, in corrispondenza appunto con il Vinitaly che si terrà invece a Verona. Il biglietto d'ingresso di 20 euro include catalogo e calice per le degustazioni. Importante novità 2015 è il servizio navetta potenziato da e per la stazione ferroviaria di Montebello Vicentino, proprio per incentivare l'uso di un mezzo alternativo e più sostenibile. Con questa notizia chiudiamo la trasmissione, vi diamo appuntamento la prossima settimana con il Quadrifoglio. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.